al tour con Ivan Basso. Sesta tappa del Tour de France, arriva in volata a Lisieux e come d'abitudine ormai in collegamento in esclusiva su Radio 24 Ivan Basso. Benvenuto Ivan. Buonasera a tutti. Allora Ivan, a Lisieux, vittoria in volata di Bossenhagen, Thor Hushovd che conserva la maglia gialla, manca solo il salmone, è Gran Norvegia al Tour de France, eh? Sì, ma sì, stiamo parlando di due grandi campioni e quindi non sono delle sorprese, insomma sono i due corridori più forti di quel paese e quindi meritatamente uno in maglia gialla e uno ha vinto la tappa oggi. Senti, ieri la pioggia, oggi invece vi è toccata proprio una brutta grandinata, il tour comincia a farsi duro anche sotto il profilo climatico, vero? Sì, oggi è stata una giornata veramente difficile, una tappa molto lunga, dopo il brutto tempo, il vento, e quindi è stata un'altra giornata dove chiaramente la squadra ha dovuto lavorare nuovamente a fondo per proteggermi e cercare di non perdere secondi preziosi per la classifica. Direi un grande applauso ad Adriano Malori, no? Il giovane della Lampre che è andato in fuga fin dalle primissime battute della giornata, poi a più riprese ed è stato riagganciato dal gruppo ad appena 3 km. A volte queste fughe riescono, a volte no, ma rimane il merito di averci almeno provato. Sì, è stato bravissimo, vi assicuro che non è facile prendere la fuga al tour, nel senso che quelli che vanno in fuga perché hanno gambe, la prima ora di corsa normalmente si fa molto veloce e i corridori che ci sono davanti è perché hanno veramente cercato con tutte le loro forze di andare davanti. È stato molto molto bravo, è un atleta fortissimo, è un atleta che è molto giovane e che sicuramente farà molto bene anche nel resto del tour, perché per fare l'azione che ha fatto ci vuole grande gamba. Ecco, ma toglici una curiosità, ogni tanto non viene la voglia anche a voi big, che pure puntate alla classifica, di farli questi allunghi, un po' per pulire la gamba, un po' anche per liberarsi la testa, visto che dovete concentrarvi per chilometri e chilometri a controllare tutto il gruppo, insomma, a prendersi un po' una mezz'oretta di libertà? Io credo che da questo fine settimana, con le tappe del Massiccio Centrale, soprattutto dalla metà della prossima settimana, tutti i leader della classifica di ogni squadra hanno tutte le salite che vogliono per poter attaccare, quindi per noi queste sono tappe molto difficili, ma più perché dobbiamo utilizzare tutta la squadra. I miei compagni anche oggi hanno dovuto prendere vento per almeno 150 km per evitare cadute, buchi nel finale, e quindi per noi è più uno stress psicofisico che non dalle difficoltà altimetriche, quindi cercheremo di stare ancora così fino a questo fine settimana e poi dalla prossima settimana comincia il vero tour per noi. Bene, allora insomma per far la gamba c'è tempo e non mancheranno le occasioni. Ivan, allora intanto grazie, ti aspettiamo domani dopo il traguardo di Châteauroux. Sulla carta sarà una tappa per velocisti, ti aspettiamo sempre qui in esclusiva a Radio 24. Grazie a voi, buona serata a tutti.